Quindi io ho un salto da 230 ai 278. Quindi prendete anche voi una quarantina di pagine e vediamo un po' come riesce ad arrivare al capoverso Madame Arnoux Tournée les feuilles du Gros Cahier. Come? Due secondi, che sono soldi la cosa che è avvenuta nel tramezzo è stata una cosa da grande romanzo e anche tra situazioni romantiche. È avvenuto un re. Ora voi dite, ma credi che è un uomo poco da due re? Senza dubbio, è un uomo poco da re. Chi di noi oggi farebbe un duello? A parte il fatto che sono riuniti dalla legge. Però, insomma, mettiamo che a un certo punto uno fosse sfidato gli spaventa i guanti in faccia, dice, verranno i miei padrini domani alle 5 del mattino. E voi sono trovati i padrini per questo. Credi che è uno che non sa leggere le armi, affatto. E direi che, implicandolo in un duello, si rende ancora più commovente, se vogliamo, patetica la sua figura, no? Lei che pratica i duelli, per esempio, ha una faccia un po' come dire truce, ma non ha una, no? Mena, poi ha menato, però, qualche gli ha preso. Però voglio dire, è normale che noi abbiamo scoperto il ragazzo, eccolo che ho compiuto, Matteo Corradini. Quando i quelli non se ne parla di me, no. Da giù di Milano, insomma, adesso ho 40 kg. E si scatta un po' della pistola, Sì, ma non credo che pure quello non sia legale, non. No, niente. No. Succede? A un certo momento in queste congiunte rosanesche che c'è un tizio che ha vari figli, che è l'esempio della fedeltà alla Chiesa Cattolica, del papismo, del bigottismo, più straordinario, ha 8 figli, che è una roba del genere, che si chiama Sisi, che è il marchese Sisi, credo sia marchese, insomma, che offende niente meno che Madame Arnoux. In realtà Madame Arnoux è sposata a un delinquente, come ben sapete. E quindi è facile, come dire, offenderla, perché si vuole toccare il marito, allora si dice quella con un poco di buono, capite? Ma questo naturalmente Frederick non può tollerare. E quindi viene gli scaramenta un oggetto al di là della tavola dove sono, no? questo oggetto lo colpisce in piena faccia, allora deve assolutamente sfidarlo a duello, e il duello avviene con la spada, ed è un duello meraviglioso, perché è un duello moderno, come lo farebbe Matteo, per esempio, perché tutti e due si cagano sotto, nessuno dei due vorrebbe farlo, no? Nessuno dei due vorrebbe farlo. Ci trovano dei sistemi, perché sapete, nelle ipocrisie del tempo c'erano magari dei sistemi per dire il duello e come se l'avessero fatto, ma poi insomma, di fatto allora la bambina là, c'è probabilmente qualcuno che più di tutti viene, sono i padrini, i figli di un padre, che ti inducono a fare il duello, però mai di combattere, devi far difendere il tuo onore, e il duello avviene. Il duello avviene e però sì, ha una tale paura che sviene e cade a terra, ma cadendo si fa male al pollice, che è una cosa, insomma, da tutti. Sangue, e allora comincia a dire, sangue, è stato colpito, è semplicemente caduto, si è fatto male al pollice. Questo significa la fine del duello. L'onore è stato salvato. In realtà, che cosa succede? succede che la regione di questo momento nessuno la sa, sa che ci rimettono a Roma. A Roma ancora ecco dice, ah, prendi, voi mi avete salvato. Voi mi avete salvato. Naturalmente a fronte che non gli importa assolutamente nulla, anzi avessi potuto far secco, a Roma l'avrebbe fatto con gran piacere. E naturalmente la voce arriva a Madame come ovvio, che per il marito non si è battuto. Madame Arnaud posso dire, ma come mai ci tiene tanto a mio marito? La voce arriva anche a Rosanette, insomma, e tutti credono che Frederick si sia battuto per loro. Quindi Frederick ne esce naturalmente con grande onore e orgoglio, e però c'è un'altra storiella adesso, anzi due altre storielle di cui fare menzione. Una è quella del paesello, come sapete, in cui c'è una ragazzina assai più giovane di Frederick, che è giovane, ma insomma questa è proprio una ragazzina, che adesso che lui ha un sacco di soldi e soprattutto è in contatto con la buona società, il padre della ragazzina in questione, che si chiama Monsieur Rock, e la figlia si chiama Louise, vorrebbe che Louise si sposasse con Frederick. Sarà dunque con chi è Rock? Rock è l'amministratore della Letta Bronze, ricordate la terza moto. Lui è una ragazza, ma non ha fasci, è una bambina sostanzialmente, è lui. Però dice, ma insomma, mi è andato male di loro dappertutto sostanzialmente, perché una è una squadra fatta con cosa fare, l'altra è una così, insomma, che allora forse con questa ragazzina, però insomma sono semplicemente in una sorta di pulpa timido e vile, perché in fondo è sempre i punti focali del nostro discorso non dovete dimenticare, insomma, e che cosa fa Flaubert? Parla della miseria umana e scherza amaramente, sarcasticamente sulla miseria umana. Questo è il punto. All'interno della miseria umana c'è l'amore. Ecco. Una ragazza, quella che l'altro giorno, se qualcuno di voi ricorda, quella con i buchi nei jeans vistosi a livello quasi pubblico, è venuta qui. E io gli ho detto, ma non si interrompe una lezione, qualcuno di voi non so se lo ricorda, lei mi ha detto che c'è un problema, ricordate che tra l'altro avevo fumato, credo, eh? E... no, perché non mi ha detto che ecco perché molto deferente, poi mi ha detto che mi avevano parlato molto di te, molto. E di me si parlava di Berlusconi. Molto lavorato questa compagnia, eccetera. Ho detto, come mai lei è così cinico e disincantato? Perché si tratta di una domanda apposta. Quindi la fortuna mi ragione per chi la risposta. Ma in realtà chi è? È Flaubert che è cinico e disincantato di fronte a queste ragazze. C'è questa aria di fidanzamento di Frederick con Mademoiselle Rock, ma non c'è poi in realtà nient'altro. Sapete, dovete sapere questo, che a un certo momento le madri di tempo cercano di sistemare le figlie, adesso forse lo sanno, sicuramente non sanno più queste cose. Io ricordo perfettamente che avevo due amici con cui uscivo, andavo la sera a casa di una signora, che aveva una figlia e l'amica della medesima. La figlia era intelligente ma pronta. E l'altra era non tanto pronta ma alta, insomma, una specie di valchiria. Quindi erano due femmine e tre maschi, avevamo io avevo 20 anni. E vedeva un whisky, ma un whisky in produzione, non proprio, non so, alla fine guardava la macchina. Problema di entrare allo sportello, normalmente. Poi lo scuola della signora, era No, ma c'è questa abitudine di cercare di piazzare le ragazze, no? Per evitare che arrivasse a un periodo critico in cui a un certo punto era lì, adesso era la città, è lì che viene la strizza di non collocarsi come desidera, eccetera. Prendete, riceve una terza corsa. Invece una scorsa botta, vi ricordate Delornier che aveva chiesto i soldi in prestito? Questi soldi lui avrebbe avuti, erano 16.000 franchi, ma vi ricordate che erano più? Ne aveva bisogno, perché altrimenti avrebbe dovuto sbarcare, andarsene da lì. Vi ricordate questo? Lei se lo ricorda? Io quanto è il punto di riferimento? Si suggestiona la sua impressione di attenzione, attento, vero? Era arrabbiatissimo, come potete capire, e decide di vendicarsi. Cioè, sostanzialmente decide di fare, è un figlio di buona donna incredibile, di andare, la parola che si trova nei buffi, una parola che non sapevo, è la parola buffo. Lei sa cos'è un buffo? Lei lo sa cos'è un buffo? Cos'è un buffo? È un debito, no? E quindi gli propone il suo aiuto, le propone il suo aiuto. Una cosa mafiosa, sapete quando la mafia arriva e dice: lei è in una condizione difficile, ma io la posso aiutare, no? La posso aiutare. E se non accetti l'aiuto? Se non accetti l'aiuto, se sei un negoziante, ti spacco le vetrine del negozio, eccetera. Quando io insegnavo a Napoli, mi ricordo, avevo due allieve sotto camorra, era una cosa terribile. De Noie decide di vendicarsi. Qual è la cosa che ha più caro? Frederick? E quindi? Madonna Nuova. Voltava i fogli del grosso quaderno, perché è in questo negozio, no? Lui è un negoziante diventato un fabbricante di ceramiche, di faianze. Lei non c'è dubbio che va bene la spiegazione di quella parola. E lui, ve lo chiede, si chinò sulla sua spalla vicino a lei, più vicino che si chiorava la sua guancia, lei, rossa. E quello rossore infiammò De Noie e baciò la mano coracemente. Che cosa fate, signore? E in piedi contro un muro lo teneva immobile sotto i suoi grandi occhi neri irritati. Ascoltatemi, io vi amo. E lui se ne partì con uno scoppio di risa. Un riso acuto, disperante, atroce. De Noie sentì una collera strozzarlo, si contenne. E facendo la figura del vinto, e domandava grazie, voi avete torto, io non sarei come lui. Di chi parlate dunque? Di Frederick? Beh, la sua parola mi importa, ve l'ho detto. Oh, scusate. E poi con voce rompente e trascinando le parole, io credevo che vi interessaste sufficientemente alla sua persona per apprendere con piacere, e lo viene malissimo. E l'antico chierico aggiunse, l'azienda, l'ex chierico, lo scrivano, aggiunse, sta per sposarsi. Lui, a un mese, al più tardi, con Mademoiselle Rock, la figlia dell'amministratore D'Ambrose, è andato anzi a Nogent soltanto per vederla. Lei buttò la mano in cuore come al punto un grande colpo recato da subito, tirò la corda del campanello, dove era l'attesa che lo si cacciasse. Quando si voltò, era scomparso. Madame Gou soffocava un po'. Si avvicinò alla finestra. cioè, il ballatore in maniche di camicia chiudeva una cassa delle carrozze passava e lei chiuse la finestra e venne a risedersi. Le alte case vicine, intercettando il sole, una luce fredda cadeva nell'appartamento. I suoi figli erano usciti. Niente si muoveva attorno a lei. Era come una diserzione immensa. Sta per sposarsi. È possibile. E un tremito nervoso la fermò. Ma perché questo? Forse io l'amo? E poi tutto un tratto. Ma sì, io l'amo. Le sembrava di discendere in qualcosa di profondo che non finiva più. La pendola suonò le tre. E ascoltò le vibrazioni del suono morire. Restava sul bordo della poltrona, le pupille fisse e sorridenti sempre. Allora, vediamo questa scena. Scegli il titoliano, la vendetta dell'odio. Insomma, se notate, questo lo dice, cioè, quanto è delicato, intenso, profondo, veramente, timido, perché la bocca ha bisogno di timidezza. Senza timidezza, perde un po' il suo fascino, senza un'adeguata imbranataggine, no? Insomma, voglio dire, il seduttore perfetto deve essere un po' imbranato, o se non lo è, deve fingere di esserlo. Qui invece c'è esattamente l'antitesi di questo. Qui di sentimento non c'è nulla, c'è una parodia del sentimento. E lui te lo viene, bacia la mano, lei lo respinge, e poi guardate questo verbo bellissimo, dice che stava in piedi contro il muro e lo manteneva immobile. Cioè, con il suo stesso atteggiamento, bloccava le orie, gli impediva di muoversi, gli impediva di fare alcunché. Sotto i suoi grandi occhi neri, irritati. Lui insiste, lui è un cinico. Cinico, guardate in mano, c'è una parte, un punto che non abbiamo veduto, in cui ha una ragazza che gli sta dietro. Lui la tratta orrendamente davanti a Frederick, poi la caccia via con parole di sprezzo e questa ragazza dice a lui, ma io ti amo, e lui risponde in questo modo, io non chiedo che mi si ami, io chiedo che mi si serva. Ha capito? Pensi se lei con il suo ragazzo potesse dire una cosa di questo genere. Non esiste il ragazzo, non esiste la possibilità. E quindi cerca di mettere in cattiva luce, lo vedremo, lo fa più di una volta, Frederick. Avete torto, io non farei come lui dice. Di chi parlare? Di Frederick, al che naturalmente la labbra per stabilire le distanze, dice, Frederick, Monsieur Moreau, ma non mi preoccupa Monsieur Moreau. Ah, dice, è vero, dice lui ironicamente, sarcasticamente, credevo invece che mi preoccupasse, perché dovete sapere con voce mordente, mordante, guardate questo participio presente, con voce mordente, cioè con voce in cui le parole possono essere dette in modo sussurrato, per essere piene di odio, di rigore, dice dovete sapere che sta per sposarsi. E va, è andato al paese, a sposarsi o sede, come si dice, è andato per incontrare Mademoiselle Locke. E che cosa è per una donna che non può vivere la cosa? Che cosa rimane a una donna che non può vivere solo perché l'uomo si è sposato, perché l'uomo ha dei figli? Che cosa rimane? Perché l'uomo non sa esprimersi. Gli rimane, come dire, questa fedeltà. E se lui sta per sposarsi, allora lei quanto conta sui figli? Non conta nulla. È il più duro colpo che si poteva infliggere ad Abramo. Ed è un colpo al cuore, in senso reale, perché lei porta la mano al cuore come al lutto di un grande colpo a sé stato. Ma subito dopo, siccome una donna piena di orgoglio e di dignità, decide di liberarsi di questo verme e tira la corda del campanello. Deonie capisce che ha dato oltre misura, non vuole per orgoglio farsi cacciare, se ne va, e lei è rimasto. E lei è rimasto. Soffocato. E questo soffocare è tipico delle grandi angosce. Quando noi abbiamo una grande angoscia non riusciamo a, no, a tirare il respiro. Soffocare quindi apre la finestra. Questa prega la finestra è naturalmente perfettamente conforme alla situazione, siccome non sente di respirare, apre la finestra. Ma poi vediamo che in realtà la chiude. Questo aprire e chiudere la finestra può sembrare senza significato, ma invece un sottilissimo significato, se vogliamo, che lo possiamo trovare. Perché apre la finestra e vede qualcosa di funebre sotto. Proverbio non ci dice che è qualcosa di funebre, ma il lettore ha tutte le possibilità di percepire. C'è di sotto un traslocatore, un imballatore, che sta chiudendo una cassa, e quindi sta inchiodando la cassa. Che cosa c'è di più funebre che chiudere una cassa? Anzitutto, la cassa, possiamo dire, un trasloco, cioè si chiude una parte della tua vita, vai via. I traslochi, non so se qualcuno di voi ha avuto occasione di farli nella vita, ma sono sempre cose che possono avere dei risvolti positivi, ma sono sempre cose angosciose per le anime sensibili, perché lui si è abituato a quelle pareti, a quei muri, a quelle luci, e improvvisamente tu sei costretto a vedere quelle stesse pareti nude. E vedi se c'erano dei quadri appesi come noce, casuccia, nelle case più belle borghesi, aristocratiche, nelle case modeste, c'erano dei quadri, e tolti i quadri tornando quegli orribili quadri bianchi sotto. E uno si rende conto che l'appartamento è grande, sono occasioni di tristezze immedicabili queste. Quando cammini per l'appartamento, sufficiente togliere un tappeto in un appartamento perché immediatamente i passi echeggi. È la fine, è il senso della fine che noi non riusciamo a sopportare. È il senso della fine. Da questo punto di vista, vuoi entrare? No, no, grazie. Allora sta fuori, per favore. No, no, ma non mi libro, mi dà un po' fastidio, mi scusi signore. O entra o sta fuori? Sta fuori. E allora bisogna chiudere la porta, scusi, eh. Abbiamo pazienza, eh. Non si può stare lì, questa è una lezione, non è un spettacolo. Grazie. Dunque, ma a parte naturalmente la metafora, cioè la metafora che significa chiudere le casse, e quindi trasferirsi in un'altra vita, la cassa che si chiude può pensare a una cosa di per sé la più virtuosa del mondo, che cosa evidentemente? Allora, quello è un momento terribile, quando una persona cara, una persona che era lì fino a un istante prima, e quello è un momento insopportabile, quando senti nell'appartamento gli operai che battono i chiodi sulla casa. E poi lei che cosa vede? Vede fuori anche non solo questi imballatori, ma vede qualcosa di terribile, che sono semplicemente le luci. Ora, Io vorrei farvi capire, sentire quanto la luce sia legata al nostro, alla nostra angoscia, no? Quando voi siete depresso, per esempio, che cosa che capita a molti di noi, alcuni in modo chiaro, sapete qual è una delle caratteristiche più significative? È che la luce non la vede nello stesso modo di una persona non depressa. Mettiamo che ci siano 100 watt in una piccola stanza. La persona non depressa li vede come 100 watt. La persona depressa li vede come 60 watt. Tutto gli sembra più buio. E guardando fuori, non soltanto guardando a noi, sente questo rumore delle casse, non solo questo, ma vede delle carrozze che passano, i fiacre che passano, quindi come se il movimento della vita continuasse indifferente al proprio dolore. Io su questa finezza volevo pregarvi di soffermarvi. Quando c'è un funerale, il funerale avviene in una chiesa, nei dintorni di una chiesa, le persone coinvolte hanno tutti gli occhi sul carro funebre. Le persone veramente coinvolte non hanno gli occhi per niente se non il loro intorno. C'è il sole, magari. C'è un tempo indifferente. Ci sono le automobili che passano, i tram. C'è una vita indifferente. Spesso mi è venuto in mente questo pensiero, sono così in modo di dirlo. Questo distributore di benzina che vedo tutti i giorni vedrà la mia morte, mi sopravviverà. Le più terribili sono le scritte, le insegne dei distributori di benzina. Quanti morti si sono viste? I fiacre che passano sono dopo l'immagine delle casse chiuse. I fiacre che passano sono l'immagine della vita che continua, implacabile. E poi c'è un terzo elemento. Improvvisamente la luce viene intercettata dalle case, ed è una luce fredda che entra nell'appartamento. I nostri dolori sono sempre, io vi ho detto in altre occasioni, collegati al tempo. La nostra vita è fatta a tempo, non ci si lavora in un tempo generico della vita, ci si lavora in estate, in primavera, in autunno. I nostri lutti, quelli che contano per noi naturalmente, avvengono in inverno, eccetera, eccetera. Così il nostro dolore avviene in presenza della luce. Questo è un concetto che vorrei aveste a cuore. Perché se la notizia luttuosa, l'abbandono, è per esempio alle 5 del pomeriggio, sarà spaventevole vedere come la luce delle 5 del pomeriggio entra a far parte di quel dolore. Ecco, l'orologio è un terribile testimone, ma oltre che l'orologio, che possiamo anche non vedere, la luce non possiamo vedere. No? Non possiamo vedere la luce che, per esempio, un incidente sulla strada ci accompagna quando arriva la polizia, quando tutto il traffico è stato bloccato, noi siamo ormai con la bocca asciutta ad aspettare questo tempo terribile passi. Le emozioni sono legate alla luce, come sono legate al tempo, dicevamo, sono legate alla luce. Ma no, no, chiudere le finestre. In questo chiudere non è perché tanto ci fosse un bisogno di chiudere le finestre da quello che ti dice l'autore, perché, non so, aveva sentito freddo. No. Le chiudere come se non volesse inconsapevolmente, come se non volesse venire queste cose che ha sulla strada, la cassa chiusa, la vita indifferente. Il terzo, le luci. Le luci che danno un senso di abbandono e di dolore. E poi fa questa osservazione europea, era come una diserzione immensa. Diserzione, la parola che la conoscete tutti evidentemente, cos'è un disertore? Un disertore era uno che aveva, era un soldato, evidentemente, che aveva un suo corpo. E dei, disertore era desero, desero desis, deserto in deserto desere. Vuol dire abbandonare. Il disertore è quello che ha abbandonato. Il disertore è quello che ha mollato. Vediamo che uno si separi dalla famiglia, dal lavoro. Una persona che non toccare si è separata. Che c'è? Una persona che non toccare si è separata dal lavoro. E a chi? Gli ha detto che lui si sente un disertore. Come se in fondo questa battaglia in cui era stato messo l'avesse per vita abbandonata. E qui la diserzione del soldato Frederick, perché voleva non vedere che quest'uomo con cui aveva puntato tutto se la abbandona, è un vile. Che cosa ne rimane? Lei rimane a farsi questa domanda, ma è possibile che si sposi? E a quel punto capisce quel che finora non ha mai voluto capire. Capisce che ama. Perché la due profonde, sensibili, austere, capire che si ha un sentimento illecito è durissimo. È come se lo negassero fino all'ultimo a se stesso. Facciamo un esempio di una cosa di altro genere, no? Per un ragazzo che arrivava ai 15, 16, 17 anni e improvvisamente scopre che le ragazze non gli piacciono, sono tratti di cui sentiamo, di cui sentiamo parlare continuamente, perché c'è una parola che liquida la drammaticità del fatto, una parola molto stupida e molto impropria, che è la parola gay, ma sono parole di sciocca moda dell'ultimo decennio di questa meravigliosa civiltà berlusconica, che sono venuti molti che parlano, ma che vuol dire omosessuale? Che vuol dire una persona condannata alla solitudine? Io ho visto drammi incredibili di omosessuali, che però a un certo punto ammettevano di esserlo e dovevano ammetterlo magari di fronte ai familiari, ai genitori. Ci sono donne di grandissima austerità, di principi, con figli, amanti il marito, è una questione così delicata dire questa espressione, amanti, innamorati, questa è un'espressione ancora più folle, perché l'innamoramento dura l'espace del mattino, dura lo spazio di un mattino, e però di fronte alla frase le più sincere, se innamorati di tuo marito, dopo 10-12 anni dicono amo mio marito, che è qualcosa di completamente diverso e spesso anche di falso. E sono costretti ad ammettere che hanno un'altra persona. In realtà noi siamo andati irresistibilmente verso il nuovo affettivo. Ricordo una persona al di là di ogni sospetto, che a me era molto legata, nel senso che era mia madre, di un piccolo fatto, che una volta fu portata, aveva poco più giovane di me, a casa da un tassista, e a tavola disse che il tassista era femmina, gli aveva rivolto dei complimenti. Lei, una cosa così innocente, così semplice, non riusciva a riferirla normalmente. Quindi la riferì il fatto che il tassista le avesse fatto per i suoi occhi dei complimenti, la riferì all'ossetto, perché già questa le sembrava un'infrazione. E che cosa potevano significare i complimenti di un ignoto tassista? Niente. Eppure tutto. Noi abbiamo fidanzati, fidanzate, sposi, spose, e complimenti certamente ci fanno molto piacere, quelli del nostro compagno. eccitazione, il brivido che ci dà quando una persona cosiddetta proibita, una persona che non vedremo più, ci fa un complimento. Ci fa un complimento. E quindi vada a noi, a questo punto, è costretta a riconoscere, a quel punto, quale punto è costretta ad ammettere che dopo lo shock, se volete far dichiarare il vostro, il suo amore a una persona che non è umiliata, perché ha paura, c'è un sistema impotente, collaudato più volte la vita, provocare lo shock. Ricordo una volta in piazza, con questo pubblico giorno che avevo insieme, con Francini, con i ricordi personali, che io a freddo, alle urne, ho scatenato un litigio. Il litigio poteva preludere alla separazione, tanto era forte, ma io sapevo che il litigio era un modo per stanare la persona da dove stava. E alle 3:05 sono riuscito ad arrivare. E attraverso lo shock noi procediamo nella vita a rivelare noi stessi a noi stessi, attraverso gli shock. E quando abbiamo subito una morte, un lutto, quando abbiamo la sensazione che la persona a cui siamo legati non la vedremo più, non la vedrà più, qui, ma dopo il mondo, sente che non la vedrà più. Finora la cosa era, come si suol dire, gestibile. Perché Frederick era lì a portare di mano. Uno comincia a rendersi conto di quando la persona, di quanto la persona è importante, quando la persona sta per partire, sta per andarsene, sta per... E allora lo capisce. Ricordatevi questa tecnica dello shock, che è molto importante. Dovete essere molto freddi in tutto questo, se lo fate, ma dovete provocare uno shock fino al punto di rottura, fermandovi un secondo dopo. Sto a capo. Ricordatevi quello che è molto importante, che mi dice il professor Guarando, questa piccola fermandosi un secondo prima, perché naturalmente se poi si stira troppo la corda, fino un secondo prima. E rimane, suona il pendolo, o cosa vuol dire quando suona il pendolo in Flaubert? È il tempo che passa. È sempre questo legare l'emozione al tempo. Vi ho detto, l'emozione è legata a due cose, abbiamo detto, al tempo, l'altra cosa, e alla musica. E rimane, attenzione, bellissimo questo, rimane con le pupille fisse. Poi ricorderete che in un'altra occasione rimaneva con le pupille fisse. E noi avevamo parlato di una sua bestialità, in qualche modo, no? Abbiamo anche fatto una specie di parodia della persona che rimane con le pupille fisse, no? Se non che con queste pupille fisse significano un'altra cosa. Cosa significano? Significano il fatto che l'emozione per lei è troppo forte e quindi rimane immobile, irrigidita. E vedete come tutto questo rende morbida la scrittura. Lo stesso segno, pupille fisse, può significare in un contesto una cosa, innegabilmente. L'atteggiamento vagamente veloce di Madame Lacan. Ma in un altro contesto, il fatto che è ormai completamente entrata nella dimensione amorosa. Quindi si è consegnata alla dimensione.